c'hai la pescata della maletta, se la parte a fare la batteria non fischi più, non c'è nessun bisogno. Non l'ho mai fatto, non è ciò stazionale, no? Ah, non c'è da nulla quello, lo faceva anche a me, anzi lo fa anche a me, capito? Il soletto me lo fa a volte, ma non è sempre. Ho capito. Lo lascio così, va bene la 5, sì. Sì, lascialo così che ti va bene. Io non sono ancora indeciso, per quanto riguarda il 2009. Indeciso il 2009? 2009. Ah, ha comprato il 2009. Se vuole, cioè, se ti interessa il barattino è un discorso, se ti interessa qualcosa HF è un altro. Quello è... a un certo punto, scusa, fai la stessa cosa che ho fatto io. Dipende quando banda è finito di romperti le palle, in pratica. C'hai tutto, non ti manca niente, c'è un apparecchio unico, ti installi un'antenna VEU. Hai capito, Ramanto, ma ce l'hai? E così non sei a diventare esaurito, io ho fatto così. Prima c'avevo il 140, dopo dovevo mettere un'altra antenna per le VHF. E poi ho dato VHF eccetera eccetera, a un certo punto mi sono tolto le palle, ho detto la cosa della mia fuzzi. Se piglio un quadro in banda e c'è tutto, e così ho fatto. Tanto guardatevi già ne ho tre in tutto, sono accompagnato di 50 baracchini. C'è una cosa unica e mi serve anche, più che altro. Per fare prove e cose del genere, anche perché con quello fa tutto, non gli manca niente, capito? Ah, ma non volevo studiare un quadro in banda io, ma no, poi non ce ne sono tutti quei soldi. Vabbè, 500 euro io ho pagato, non ti credo che abbia pagato. Quindi, già si trova un bel quadro in banda nuovo, non è che non si trova. Sono sempre 500 euro, no, se intorno ai 180, 200 ci sta, no, di più no. Per prendere un quadro in banda ne avrei preso un bel 440, 140. Sì, vabbè, 140 piglia scariche le motore delle macchine, lascia perdere. L'ho usato io, va bene in campagna quello, 140, 680, ci vuole una parecchia che ha dei filtri. In città ormai è diventato un motoriaio, praticamente vicino a casa tua, lì le macchine salgono tutti i giorni e salgono anche parecchi. Ovviamente ce l'hai, capito? Devi stare sempre a... Tu quando se c'è qualsiasi scarica, io diventavo esaurito con questi teorici che c'ho vicino. Sempre con RM9, sempre con RM9, a un certo punto a fanculo, le orecchie sembravano un po' a fango. Ciao Angeli, ma c'è qua un Kenwood Canon Server TR7850, lo conosci un po'? No, non lo conosco, no. Avanti Angeli, e beh, c'è il vento, qua ne sta tirando un bel, eh? Pensavo che mi sentivi più, mi sembrava strano. Sì, buonasera anche a te, anche tu avevi 8 qua, Radio 5. Bravo! Ehi! C'è il Volkswagen, 2,99 più 8 di spese, poi di banda. Fa da 26 a 28, da 26 a 29,95, poi fa 173, 950, 400, 480, viaggia, allora pigliati quello, ho detto, pigliati una cosa del genere, ce ne sono tanti misuali service di quegli apparecchi così, HF pieno, se lo prendi uno, anche se cinese, cosa della fotti, di tante funzioni che ti soddisfi anche, capito? Allora sei più tranquillo, non devi stare a comprarti 50 apparati. Guarda che sei l'unica cosa quando sali a installarti l'antenna, ti metti l'antenna come si deve, la mantova, sistemi e poi ti prendi una VU, basta, non devi fare nient'altro. L'apparecchio ce l'hai, non fai altro che cambiare banda e basta. Aspetta un attimo il telefono. C'è la gaba. Ma quasi banda non mi posso nudare. C'era Iaese, effetti 818, 690, sì, vedete ci spendono 600 euro, vaffanculo. Però via, vabbè, è bene di lì, non stai combinando. Mike, bravo, capito. Casino. casino, mamma mia. Come così la propagazione non serve. Oh, gaba, gaba. A 45 euro, dai, frate, c'è molta propagation, tutta la nord Italia, sud Italia, capisci a me, gaba. Ciao Eugenio, alle prossime, gappa gappa, sì Angeto copiato, stavo ascoltando Eugenio che stava salutando, capisci a me, gappa, vediamo un po', ci sei Riccardino, aspetta, Riccardino, ti stanno coprendo, è un casotto, ma senza la propaganda, sono le antenna e qualche watt in più sotto e tribula la cosa, lì hai i canali in più, ce l'hai il 45. Deve essere un baracchino che ha qualche canale in più, al 45, capito? No, capito, vabbè, la propagazione sui canali alti, capito. Cappa. Sì, ti saluta Angelino comunque, che lui non ti ascolta. È un casino se non c'è antenna. Farà fatica anche a me ad ascoltarmi. Guarda Angelino. Cappa. Sì, adesso già si è ordinato la 5 ottavi, poi magari già vi sentite bene, dai. Ma tu ce l'hai il 45, sì? Sì, io sto aspettando una chiamata, eh. Una chiamata che devo consegnare una cosettina. Ciao Riccardino, stasera, ciao. Lo so, come alta. Pomponio, ci sei? Pomponio. Aspetta 2 secondi, io arrivo subito, due colpi importanti al 45, vediamo un po' se mi ascoltano. No, non c'è Pomponio, chi è che ha chiamato avanti? Io. Chi è? Che cazzo, sei in basso? Sì, Santiago 4, Radio 3. Che ragazza! Siamo a Cangilio, ti ascolta. Ma se ti faccio una modulata, me la fa una registrazione e me la mandi su WhatsApp, voglio vedere come arrivo da te. Se mi fa una registrazione, dai, di 10 secondi va bene, e me la mandi su WhatsApp. Fa. Positivo Caparrocchi. Attenzione Angelino di Alghero, se tu ascolti Luca qua in quella di Sassari, gappa gappa. Gappa del rucchio, frate, gappa. Esagerato. Qua così è ancora più alta, scommetto, vero? Gappa. Addirittura 9 arrivo, cavolo, questa già spinge questa qua, Adesso gli abbino il 747 e ho fatto la frittata. Sistemiamo. Allora, dovrebbe Allora, fammi vedere. Lunedì dovrebbero aprire i barbieri, lunedì o martedì. Poi tagliamo i capelli, così c'ho i capelli messi bene, tutti i capelli fanno schifo, per carità. Quei pochi mi sono rimasti, ma me li voglio sistemare, vediamo. Aspetta che me l'ascolto. Angelino, un po' di qualcuno che mi cercava di sovramodularmi, dai. Già non ne sono accorto dalla registrazione, dai. Comunque ci arrivo forte. trovato le manopole e come si chiama, i coperti. E già lo so, già, giallo. Ho capito, stavo controllando se c'era un apparecchio simile a quello lì, SMD, no, lo devo altro, non aggiù altro, bisogna che vedo questa cosa che ti manca, non so, questo filtro se non ce l'ho presente. sì, sì, certo. E beh, le barre filettate tagliate, messe, ah, sì, sì, Angeli, ho visto, c'è 100, 200 euro, 200 euro, 200, 220, minchia, questa non va, ma 200 euro, è stato un bel di no. Quanti watt danno quelli? Cazzo, 1000, questa cosa è ZG, vediamo un po', amplificatore di potenza ZG, il B501, e il B501 quanto costa? E c'è l'RM modello 500, quello lì è 24 però, 24 volt. Ah, fanculo. Ehi, pompo, pompo, e ma che lo stai usando fa? Una fagliette, un basso, sì, un bel basso. Un altro mi sa mi è arrivato in off, boh. Quante modulate fa? Quante modulate anni fa? Sì, sì, sì, e beh, è un giovincello, adesso, non so, tu mi sai che sei più grande di me anche, io ne faccio 46, se Dio vuole a dicembre. Di che anno sei? 74? Là c'è, abbiamo la stessa, eh? Sì, ho visto Angeli. Ecco. È raffredda? E poi l'Intel è micidiale. Come, dove l'hai collegata? All'alimentatore? Ah, sì, quelle viaggiano, Quelle viaggiano. Sì, sì. E infatti fa, mi ricordavo che noi avevamo la stessa età. Io ne faccio 16, magari 46 il 16 dicembre. E anche lui è in condizioni precarie, dai. Non si piazzerà la mantova. Poi ti sistemerai l'antenna anche tu e vedrai che poi. Speriamo che dopo l'epidemia la gente rimanga, No, io già entro, anche quando c'è l'epidemia, io, Claudio, Pomponio e tanti altri. Gianni do più room. Vabbè, dai. Poi è entrato coso anche, Fabio, quello di Carbonassi, Fabio, adesso non mi ricordo il nominativo, Corriere. Roberto Bandito, chi è che non sentiamo più? Sì, sì, è fuori, sta lavorando fuori. Chi è che non sentiremo più fa? C'è una diga in Mussolini. Franco, vicino a casa abitava, più o meno vicino a casa mia. Eravamo vicinissimi, vabbè. Quanti ne sono morti? E quanti non entrano più? Sì, e poi c'era Marcello. Poi c'era il fratello, Buonanotte. Sì, Marcello, se non metto un nome, Maurizio. C'era JJ, quello di Luna e Sole, poi l'altro non mi ricordo come si chiamava, c'erano tanti, cavolo. Simone ne forruggiamo, quanti si dice, no? Via, per carità, va. Vabbè, vediamo un po' se pomponi, un po'. Sono qui, ditemi tutto. Ma non la lasci la birra, eh? Ma vuoi che ti faccia parlare con uno? C'è l'aria che mi ha cagisso, già. Ci avrà 70 anni come minimo. O ti faccio schiatta, eh? Parla da solo con uno. Angeli. Ah, vabbè. Basta, lascia tutto com'è, che te se ne frega. Poi quando se lavori, ovvio, prima lavoro, poi la passione, quando c'è voglia, che hai tempo per modulare. Capito? Quando io ho fatto la stagione l'anno scorso, rientravo un metà di a casa, e mica avevo voglia di attaccare il baracchino. Beh, certo. E io vabbè, piano piano, avanti un po'. Piano piano già si fa tutto, dove quello è il problema. Oh, sì, 5 minuti per me, arrivo subito, riprendete. D'accordo. Allora, aspetta, avete parlato in due. Qui non avete ancora arrivato niente, Marco o Fabio. Va bene allora, ok. Avanti, Albi. Ehi, Fabio Master. Abita qua vicino, abita. Ehi, a voglia. C'è una buona posizione, sono. Allora, visto. La senti a tutti, tolle che a Fabio, vabbè, Fabio già sistema la sua antenna per questi giorni, come si vede? Così verrà che arrivo anche nella parte tua. Esatto, sì. Già andava. Con il PMR, ma... Cagliari dove? Su Zello. Per quello già. Puoi utilizzare il CPM, il 27 mi sembra. la stessa concessione, volendo. Non so che non lo sanno, il PMR si può usare come voi, capito? Perlomeno io lo uso così. Antenna, per la porta, nella porta tutti e due si sta presso, così non devo stare a voci, a, capito? Si vede, non si vede, si vede, non si vede, si vede, eccetera, eccetera. Quindi mi riporto appresso, io utilizzo in due persone, anche perché in quel posto lì dove sono andato non vedo manco un carro, manco le buste, cioè, figurati, giù alla cementeria, in quelle case. Allora, però, siccome il quadro era sordo, quando sono andato a fare l'impianto, gli ho lasciato una lì e poi si è sentito sopra il tetto, io ho fatto solo il puntamento. Mi ha detto, sì, Antonello, si vede, scenda, scenda tranquillo. No, non c'era, cosa, Angelo, si usa l'88, l'ho usato quello, ne avevo comprato due, 44 euro avevo pagati di una cosa, dai cinesi, funzionava bene, adesso c'ho il coso io, l'V5 di più plus. E io c'ho tutti e due, cioè, non se so parecchio. Messo 8 canali PMR e 8 LPT. Esatto, sì. Ho fatto così e parlo tranquillamente. E da qui arrivo sino a coso. A Porto-Torre se invece va là, quindi figurati, perché sono in alto. Mi metto vicino alla finestra e parlo tranquillo. Guarda la in gomma. Poi vabbè, c'è un'antenna sopra il tetto grande, quindi. C'è anche quella... l'ex 300 c'ho, cioè, in camera conservata. E senz'altro ci sentiamo, perché un giorno è entrato un ragazzo con un portatile PMR così, a tutto bella era, figurati tu, era appunto piatto e tutto bella, arrivava nuovo di segnale, quindi vabbè, c'è anche cosa almeno, Marco, che non ho più sentito, anche lui parla in PMR, capito? Penso perché sì, vabbè, io c'ho anche la discola è messa in basso, non è che dia tutta questa cosa, questa potenza, scelta di transizione e di ricezione, l'ho messa troppo in basso, quando cambio il sistema, adesso appena faccio i fuori, le gaffe, cambio tutto il sistema, metto il palo della matto da una parte, dall'altra parte ci metto quello delle V, così è più libera e esce meglio. Esatto, sì, anche perché è sotto la manta, ma l'antenna, capito, e non vende nulla. Usavo anche la X300, ma non dava un cesso, invece viene piazzata la X300 da un'altra parte, proprio libera, un trailer, vero? Quindi a voi gli è apposta anche tu, allora, si andrà bene, avanti, ma Fabio. Via, ci vuole aggiungere qua da sistemare, non scatta il relè, non scatta, accende la valvola, però il relè non scatta, ho controllato l'ingresso, come si chiama, Sì, praticamente si cita per lei. Quindi anche controllo per lei cosa diavolo gli ha preso. E io 300 watt. Una. No, solo la valvola c'è. Vabbè, il transistor ce l'ha per forza, quello sì. Capito. La voce è nuova, è stato bene. Ok. Non si eccita la legge, cioè in pratica vado ad agganciare, non sento un cazzo nel baracchino, non c'ho l'eccezione. Quindi in pratica non si eccita. Chissà, o si è incantato, mi sembra strano. A meno che non sia partito qualche diodo che alimenta il relè con l'altra che la corrente si eccita. Ah, non si muove proprio, se io collego la stazione anche baracchino, non c'ho eccezione, capito? Non c'ha il, cioè quando tu per dire, lo accendi in modalità riposo, capito? Quindi proprio niente, non si eccita nulla, non sale e scende tutta. E devo controllare tutti i contatti della rete, quello è. Ho guardato dove c'erano i cavetti, le G58, arrivano, c'è quello dell'ingresso e quello dell'uscita. Il 58 non c'ha niente apposta, sia uno sia l'altro. C'è solo un problema di rete. Evidentemente non si eccita, bisogna che controllo lo schema elettrico e devo guardare chi pilota il relè, dove sono lanciati i due fili di alimentazione. E l'ho fatto scaldare, te lo sto dicendo, cioè, la valvola si accende, perfetta, eccetera, eccetera, tutta, no, faccio ricezione, non scaldo scaccio portante, non sale e scende. Di pazienza, possiamo farlo anche in due, tanto devo fare anche quel 3009, poi c'è un Galaxy Pluto da che non c'ha nulla, se Giuseppe la accende lo è, non riceve per niente, ma con frequenzimetro si accende la metà del frequenzimetro si accende, adesso stasera prima di tutto mi compro qualcosa che mi interessa di più, vado a spinotto a 8, la Giviniti, così mi metto il microfono alle 10 in quel barattino famoso in piazza e facciamolo quello. Poi domani con calma, perché stamattina ho fatto un'antenna, poi ha chiamato quella, c'è un ricevitore vecchio come il cucco, e c'è un tonnello qua e là, non va bene, e tu guarda, porto il televisore che c'ho io, ho detto gli faccio vedere che la TV si vede, se gli ho cambiato il cavo nuovo, ho detto la TV, ho detto si vede per forza, perché prima il segnale detto c'era, e dipende dal ricevitore che lei sta usando oggi, ho detto, allora telefonato al figlio, mi ha detto no, non c'è bisogno, Antonello, non c'è tutto a posto, mi ha detto, mio figlio già mi porta il un ricevitore nuovo, ha detto, no, meglio così, ha detto, se a casa c'è problemi, ha detto, me lo dice, siccome il cavo l'ho comprato nuovo, gli ho detto, non mi costa niente, ho detto, cambiarlo e se la piglia in Napoli. A volte capita magari che come li avvolgono, se hanno qualche strappo si taglia il cavo all'interno. Ciao belli bei, e beh come gira? Ciao a tutti. E beh, come gira? Beh, un po' come gira. Attenzione Marcolino, quando se tu ascolti Luca qua, gappa gappa. Come gira? Vabbè, se non arrivi qua è preoccupante. Voglia si gira. No, a Fabio ricevo. Vabbè, gira come un omologato, giustamente. Comunque funge, dai, funge. Credevo peggio. Dai, riprendete, ho acceso, non ho ascoltato nemmeno chi c'era. Saluta Angelino di Alghero, va. Angelo d'Alghero, mi copi? 1, 2, 3, 4, 5. Sì, Santiago, 7:30, 7:30 Radio Bona. Ok. Ebbè Antonè, sparito, e lui l'ho letto in ritardo quello che mi avevi scritto. Vabbè, è un problema a spostarsi anche eccetera ancora. Dal 18 puoi fare il cacchio che vuoi, non c'è più bisogno del foglio. Speriamo. Cosa Angeli? Anche qua Sassari. Bisogna sempre andarci adagio. Sotto ne vediamo punti a capo. Beh, 25 mi ha detto, lo mettiamo una piscina in terrazza, è finita. Ah. Non so se si può andare in piscina. Non lo so, questo non lo so. Lo dico, andare a cosa? Monte Oro. Avanti Marco, lo senti Angelino? Sì, 7:30 ribadisco, arriva bene. No, volevo chiedere a Fabio se l'ha provato in FM quell'apparato. Prova, vai fa. Prova in FM, metti un po' di squelcia appena appena, vabbè già lo sai. FM e allora per farci passare in AM ha messo portante, cosa ti dico? Io. Ma non stavi uscendo di radio Claudio? No, c'avevo il microfono chiuso, mi stavo chiamando per passare in AM, che io non ne ho FM qua in questo baracchino. Era una prova valida, ma Fabio come ti... Ah no, non ce l'hai l'FM, hai detto. Va bene, dai. Io mi sto pigliando il caffè, Claudio. Poi mi vesto, devo fare comprare due cosette alla Cobb e comunque la spazzatura, insomma. Ieri ho strafatto, ho sudato in macchina che non hai idea, ero stanco morto alla fine, morto. Infatti non sono entrato neanche in radio. Vabbè, perché sono 9:30, infatti arrivo. Ma qua è il massimo, cioè non, questo più di 9:30 non va alla scala. Cioè anche se vieni sotto casa è sempre 9:30, in poche parole. Va bene. Ciao, buonasera a tutti. Che palle di giornate comunque, ancora. Piuttosto, come siete messi a guanti voi? A guanti in lattice? Perché c'è penuria, stanno sparendo in tutta Sassari. Ieri ho dovuto faticare per trovare un pacco di guanti. E li ho presi da Risparmio Casa, a fianco a 1 euro. Tutti gli altri, Mauris, tutti terminati guanti. Una cosa allucinante. E l'hanno detto in TV, c'è di nuovo un'emergenza guanti, emergenza mascherine. Punto a capo siamo. Ehi, io i guanti li uso solo quando vado ai supermercati a fare la spesa, non devo stare con i guanti, io non sto toccando merda. Ehi, ma anch'io, solo quando entri in esercizi pubblici, però li stavo finendo io i guanti, li stavo finendo, ne avevo non pochissimi ma nemmeno tantissimi, se no non ti fanno manco entrare, mi assicurai dove vai. Ehi, ma speriamo che dopo il 18 sia un po' di libertà di movimento in più e speriamo che non ci sia di nuovo il picco, se no punta a capo a Verumi, così la volta che mi suicido davvero. San Marinese, ah sì, quello per vendere tinte. Fabio Master. Anche Luce. Avete parlato in due. Alviero mi arriva quanto mi arrivi tu. Cosa hai detto Fabio? Sì, guarda, sicuramente c'è una gelosia addosso che non posso rimanere. Niente, io dell'SMD, già basta quello che c'ho SMD, anche Baracchini ci voglio. Segnale 6910, 915, la radio è 5, normale. Sei più pulito di radio. Sei più pulito. Va bene. Non io stavo provando un amplificatore. È meglio che lo stacchi però. Anzi l'ho staccato. Perché se no mi sfascio tutto. Minchia che mi ha mandato a fondo scala lo strumento. Non lo stavo più attaccando, non mi ricordavo che era così forte. Ah, è Claudio. Vabbè. Oltre il più sono da te o sopra il più? Qua sei sul 3, su questo qua. Quindi dopo il più non più del 3,5 K. Aspetta, vorrei che tiro su. Qua lo stesso è Claudio. Stesso segnale di Marco c'hai? Stesso segnale di Marco con lineare. Provate, provate. Beh, vabbè, qua Marco è più vicino comunque, capito? Non c'è lì. Ma lineare attaccato c'hai, Marco? No, no, guarda il segnale, sono con il 3 watt, sarebbero 4, però col filtro me ne rubo. Ah, neanche io ce l'ho attaccato. 1, 2, 3. No, non passate, né uno né l'altro. Vabbè, lui è molto vicino a te. Comunque Marco è una gatta da pelare, è lo stesso, là. Vabbè, vicino. Siete vicini. Quanti watt stai usando, Marco? 3, cioè l'apparato ne dà 4, però io tengo sempre esclusivamente il filtro. Se non mi senti, con 5 watt, 10 watt non mi senti, ora, ora, ora. Non di più. Sempre. No, non ce la fai qua. Non ce la fai qua. Sì, vabbè, lontananza, ma lui è più forte, perché è più alto e diversa la cosa. Ma è più vicino a me, capito, Angeli? Eia, ma Claudio è molto più in alto, infinitamente più in alto. Ma quante volte sta usando anche, Claudio? Quanto sto usando il baracchino, cazzo non ho visto, sto usando il baracchino. 4 watt, 5 watt, modulati, sì, 7. Aspetta che ti faccio vedere il tuo segnale reale. C'è un brecchio di carro, avanti di carro. Ti saluta Angelino che non ti sente. Bravo, bravo. Per il momento rimani così, dai, poi quando piazzi l'antenna vediamo il tutto e le cose cambiano. Va bene. Avanti, Fabio Marte. Ecco.